giornata sotto il sole. Così, come solo tu sai fare. E non ti importa di quello che gli altri dicono. Dire sempre sì, anche se non ci credono. Come va una voce dietro lei? Sa quante cose le farei. Nascosta dietro gli occhiali da sole. Hey, hey. Beviamo un cocktail in riva al mare. Tutto facile, con te è come nelle favole. E non ti importa di quello che gli altri dicono. Dire sempre sì, anche se non ci credono. Così bella la foto scatterò stasera, con lei uscirò. Nascosta dietro gli occhiali da sole. Hey, hey. Beviamo un cocktail in riva al mare. Beviamo un cocktail in riva al mare.